So quanto fa male perdere un amico. Il mio era un gigante con il suo mistero. Spero che con quello che dico posso portarlo nel cuore, dimezzare il tuo dolore, il tuo rumore, anche se resta. Resta, sai, il rumore tra le parole che vi siete detti e tutte quelle cose che poi avete fatto. Rimane il silenzio a sopportare tutte quelle catene del cuore. In fondo volevate soltanto un mondo dove camminare, e poi la morte l'ha preso e l'ha portato via. Ma tienilo nel cuore, nelle tue lacrime eterne. Forse il giorno verrà e seppellirà quello che c'è stato. Resta, sai, so quanto fa male perdere un amico. Il mio era un gigante con il suo mistero. Spero che con quello che dico tu possa portarlo nel cuore, dimezzare il tuo dolore, anche se resta, resta, sai, resta, resta, sai, resta, resta, sai, resta. Tutti quei giorni di festa passati a sorridere, camminare leggeri sul mondo, quel bisogno che ancora di vederlo, e tutte quelle volte che ti vorresti sentir dire quelle parole d'affetto mancate ora, spera solo, ok, ci sono io ora, se vuoi qualcosa io posso farlo, non posso sostituirlo, ma resta, sai. So quanto fa male perdere un amico, il mio era un gigante con il suo mistero. Spero che con quello che ti dico tu possa portarlo nel cuore, dimezzare il tuo dolore, anche se resta, resta, sai, sempre quello che non ritorna. E in fondo tutto quanto poi sogna un altro mondo, e non sai dove buttare la testa in quei momenti, in quel lutto, tutto è più brutto. Tutto sembra quasi dire la fine del mondo, ma poi passo dopo passo, ricorda, c'è sempre una soluzione, ritorna il dolore, ritorna sì, ma ritorna anche l'amore per il mondo, per la gente, ciò che ti sta intorno. Piano piano camminiamo, piano piano cammina e spera che quella sera diventi un ricordo di qualcosa di meno duro. Resta, poi resta, so quanto fa male perdere un amico, mi ero un gigante con il suo mistero, spero che quello che dico tu possa portarlo nel cuore.